Easy Pop vi presenta la rubrica di approfondimento musicale di Franco Paoletti, con la regia del bolognese Volante. Franco Paoletti intervista Darman. E abbiamo nel nostro salotto appunto musicale, che è Easy Pop, anche un nuovo artista, nuovo per noi appunto, e quindi darei la parola a Darman, che è qui per presentare il suo tour che passerà, anzi toccherà assolutamente Bologna il 13 febbraio. Ciao, ben arrivato. Ciao, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Ciao Darman, quindi io ho un attimo saccheggiato nel tuo passato tra le tue note musicali e devo dire che insomma hai 4 dischi all'attivo, quindi complimenti, un rock pop, non so se si possa definire così la tua musica, però insomma raccontaci come hai iniziato. Allora, innanzitutto grazie per l'invito, è un gran piacere essere qui e ritornare in etere a Bologna, perché ci ho vissuto nel 2012, dove tra l'altro ho aperto il concerto del 1° maggio in Piazza Maggiore, quindi è un gran piacere ritornare, ci ho già suonato anche altre volte, però è sempre un piacere, insomma, ritornare in una città che ho amato e che ho vissuto. E io parto da un paesino in Calabria, si sentirà anche dall'accento, credo. E quindi sostanzialmente parto da questo paesino sperduto nelle montagne che mi ha formato anche dal punto di vista di non avere fretta nella vita, quindi anche per questo mi fa molto piacere essere arrivato a voi con i miei tempi, insomma, per scoprirmi bisogna assolutamente ascoltare la mia musica, perché dice più di tante parole che potrei dire io. Ho capito, infatti io voglio ricordare che hai 4 dischi al tuo attivo, quindi di cui un album proprio registrato qui a Bologna, città della musica, ma partiamo dalla fine ovviamente. Tu sarai qui a Bologna per presentare un recital, soprattutto grazie al progetto Itaca, che è un ambiente un po' particolare, ce ne vuoi parlare? Assolutamente, sì, certo. Il tour che gira dappertutto è un tour nato grazie al mio progresso e il mio vissuto in famiglia con i miei zii che hanno un disagio psichico, e quindi io ho sempre suonato per loro, sono cresciuto con questo grande insegnamento, questa grande sensibilità a loro, e quindi sono sempre cresciuto con l'idea di non giudicare mai le persone per il loro aspetto fisico, per il loro aspetto psichico, passami il termine, tra virgolette, perché ciascun essere, che sia vivente o che sia di qualsiasi tipo, ha comunque la sua peculiarità e le peculiarità di quella persona sono assolutamente da ascoltare e da accogliere. È proprio per questo che ho voluto fortemente questo tour e ho trovato in Fondazione Progetto Itaca, che è una fondazione molto importante a livello nazionale nella sensibilizzazione, nell'aiuto a persone con disagio psichico, un interlocutore molto attento che ha voluto questo progetto insieme a me e che mi vedrà impegnato appunto in questi concerti che sfoceranno in musicoterapia, tra cui appunto il concerto che farò a Bologna lunedì 13 febbraio al Club Itaca di Via Nazario Sauro. È importante appunto ricordarlo, dove l'hai fatto tu, ore 21 se non sbaglio. Come? Ore 21, vero, più o meno, vogliamo essere un po' precisi nell'orario, vero? I biglietti sono ancora disponibili. Sì, assolutamente. Perfetto. Senti una cosa, a proposito di disagio appunto mentale, comunque sulla malattia mentale, Jacky Sticchi ne aveva parlato proprio da un palcoscenico importante come appunto come l'Ariston. Poi però si rifiutò di farlo invece Mina, rifiutando la canzone di Don Bachi, mi sto riferendo a Sognando, che fu praticamente un caso clamoroso. Attualmente è stata ripresa dai Maya Escort, questo gruppo alternativo veneto, e tu ti poni su quella linea lì, quindi tutte le tue canzoni saranno verso questo focus, oppure presenti anche i tuoi quattro brani, insomma, cioè scusa, quattro album, quindi sarà anche dato spazio ad altro. Allora, guarda, una delle peculiarità della mia musica è che non è didascalica, quindi io magari do delle tematiche all'interno delle canzoni, snocciolo delle tematiche, ma non parlo mai direttamente di quella tematica. Quindi in questi concerti barra musicoterapia ci sarà modo di riflettere sulle varie tematiche che vertono i miei brani, che non sono specifici del tema, però comunque parlano sempre di apertura, di aprirsi agli altri, di porgere la guancia verso gli altri, di non aver paura di mostrarsi agli altri, che le peculiarità sono delle forze e non delle debolezze. Quindi tutte queste cose, gioco forza, poi si riflettono anche in questa tipologia di disagio, no? Che è visto anche come uno stigma nel nostro quotidiano, e quindi tutte queste tematiche sommate poi ovviamente al mio pregresso familiare, che mi rende molto sensibile all'argomento, è molto diciamo vicino a queste persone, mi ha portato a volere questo tipo di tour molto particolare. Ho capito. Senti, per antonomasia, no? Dicono che gli artisti siano un po' matti, vero? Nella tua assolutamente sì. Quindi ci siamo. Senti, invece, nel tuo nuovo album, che cosa c'è di particolare? So che è uscito proprio a gennaio, parliamo anche del tuo ultimo lavoro. Sì, il Rifugio è uscito, allora il disco è uscito a novembre, tu ti riferisci sicuramente all'ultimo singolo, che è L'Essenza, sì. L'Essenza è una canzone molto molto intima, perché parla del disagio, tra virgolette, appunto di vivere una situazione di lontananza con le persone che amiamo, come possono essere i miei genitori, ad esempio. E questa cosa è molto importante anche nel mondo d'oggi, perché vediamo tante persone che scappano da situazioni di guerra, che lasciano le proprie famiglie, che lasciano veramente tutto nella ricerca magari di un'effimera felicità che possa essere l'Italia, che possa essere l'Europa. Quindi diciamo che da questo punto di vista io mi sento paradossalmente anche fortunato rispetto a quelle persone che lasciano tutto, perché io è vero che sono lontano dalla famiglia, però comunque con un'ora e mezza di aereo posso raggiungerla. Quindi questa canzone mi fa ancora più pensare quanto siamo fortunati a vivere una situazione più che altro abbastanza tranquilla rispetto a altre persone molto meno fortunate di noi. Direi che è proprio così anche il nostro pensiero. Senti, tu come artista, oltre che Zingaro, perché tu hai girato insomma tutta Italia poi per registrare i tuoi, appunto, i tuoi album, perché tu hai registrato uno proprio qui a Bologna, però sei a Torino e così via. Volevo appunto chiederti, ma il bisogno delle radici tu lo senti oppure no? Sì, sicuramente sì. Le radici sono importanti. Ciò che ti lascia una terra, prendo molto spesso come riferimento un concetto che ha snocciolato un mio conterraneo scrittore che si chiama Domenico Dara, che lui parla della Calabria o comunque dei posti dove ha vissuto da piccolo come dei luoghi fermi nel tempo e non nello spazio. E questo è un concetto molto bello, perché ti fa capire come molto spesso noi abbiamo un ricordo legato al tempo che rimane indelebile, però è importante anche vivere e accogliere i posti, i luoghi, le culture dove poi ti insedi o dove magari transiti, per arricchire il tuo bagaglio culturale e sentirti anche cittadino universale, non solo il cittadino di quelle radici che rimangono, che però comunque se rimangono solo quelle poi rischiano anche di farti rimanere un po' troppo ancorato a delle situazioni appunto legate al tempo e non allo spazio. Ho capito. Senti, Darman nel suo piccolo com'è? Cosa legge e poi qual è il tuo rapporto con i social? Ma leggo di tutto, mi piacciono soprattutto i libri che parlano di storia o comunque anche di introspezione, di psiche. Ad esempio, l'ultimo libro che ho letto è un libro su Gurdjieff. Con i social cerco di avere un rapporto tutto mio, cerco di gestirlo a modo mio, senza essere troppo eccentrico, senza eccedere, diciamo, nel mostrarmi nelle storie, so, qualcosa. Cerco più di far parlare i contenuti e non magari riempire uno spazio con contenuti che con la musica non c'entrano nulla. E infatti anche nel look sei molto, diciamo, spartano, molto, diciamo, non frivolo, ma molto, terra a terra, insomma, mi è sembrato di capire. Poi, ti conosco Sì, poco, quindi è ho detto. vero, è vero, anche perché comunque ho la fortuna di avere l'immagine artistica assolutamente affine, se non uguale, all'immagine che ho nel quotidiano, quindi questa cosa mi aiuta anche nella comunicazione perché non ho un personaggio costruito, ma sono esattamente quello che vedete. Perfetto, allora senti, io ti saluto, cioè ti saluto non prima appunto di ricordare che appunto sarai oltre che a Bologna il 13 febbraio, sarai appunto a Parma il 14 febbraio, a Milano il 15 febbraio, il 24 sempre febbraio a Lecce, per poi ritornare appunto in Emilia il 27 febbraio a Rimini, poi ovviamente il tuo tour proseguirà. Che dire, noi ti facciamo in bocca al lupo ovviamente per questo spettacolo curioso perché è molto particolare, soprattutto per la tematica ovviamente, ti strappo i saluti di rito per Radio Città Fujiko e ti auguro ovviamente buon lavoro. Grazie a voi, grazie per le parole. Sarà sicuramente un bellissimo tour e speriamo di vederci magari in studio, perché Radio Fujiko la conosco molto molto bene ed è veramente un onore essere su queste frequenze. Come sai, grazie per le belle parole, come sai, Radio Città Fujiko è anche casa tua, quindi ritieniti sempre invitato e ben accolto. Grazie. Grazie mille, un abbraccio, ciao. Ciao. Easy Pop è il salotto musicale di Radio Città Fujiko. Un programma di Franco Paoletti, in onda la domenica pomeriggio dalle ore 15 alle 16, per ascoltare musica indipendente al 100%. Non ti perdere il nostro appuntamento.